posso andare. È il mio momento. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sei sulla frequenza della benevolenza. M2O. E qui ogni giorno alle 18 c'è qualcosa che cammina. Il sentiero non è mai uguale. La strada non è mai la stessa. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al vidrio, mirando la puesta del sol. El escritor era una mesa, colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Era más, vamos a la Eva. Vorrei ascoltare Cadavez remixata da te. La dedico alla mia principessa. La amo. Delle dediche o che ne so, il numero per gli SMS è il seguente: due punti, cercate la penna, prendete il foglietto, questo è il numeretto: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Già. Put a Daniele di Orbassano. Ti volevo dire che te e Provenzano siete fantastici. Inchia, grazie. Anch'io vorrei fare il DJ e sono 4 anni che inseguo questo sogno, ma nessuno mi ha mai dato la possibilità di realizzarlo. Ma io credo che le occasioni vadano costruite con grande sacrificio e con grande energia, e non di sicuro con questa linea pessimista. Molti ragazzi mi scrivono del loro sogno di fare il DJ. Credo che troppi ragazzi si fermino di fronte al dettaglio tecnico. Imparano a mettere a tempo 2 dischi, 2 brani, che sia CD o disco. 2 dischi. E poi aspettano la manina dal cielo. Fare il DJ non vuol dire far andare a tempo 2 dischi, ma vuol dire far andare a tempo il tuo cuore con quello della gente. Vuol dire suonare un'armonia a un ritmo che possa unire il tuo cuore a quello della gente. Che sia un brano dolce o dei rumori a tempo, il senso non cambia. E l'essere travolti dallo stesso brivido che mette in sintonia e allo stesso passo dello stesso mondo, in quello stesso istante, una grande famiglia danzante. Vuol dire riuscire a dare alla gente lo spazio e il tempo. A tempo per lasciare andare l'immaginazione, in modo che ognuno possa scoprire i propri cieli azzurri o sprofondare in abissi di riflessioni che scavano dentro e piangere dalla gioia per aver visto così tanto. Gigi D'Agostino. Anna da San Severo. Qui ci sono 40 gradi e grazie al mio DJ preferito, grazie, l'aria si rinfresca. Saluto mio marito Antonio. Gigi D'Agostino. Oh già già. Dedicare cammino a Sami, sperando di percorrere la strada della vita insieme. Sono Matteo, dalla provincia di Firenze. Volevo dedicarmi tutta per me, cammino, perché lei mi mancherà come l'aria. Ma forse io preferisco andare in alto mare e rischiare di restare là, dove ballerò in equilibrio fino all'ultimo giorno. Minchia, l'ha scritta tutta. Ci vediamo lì, Matteo. Sono legato, astornato. una storia, una più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, il sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, la frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Un santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, e come un soldatino, taratara. E cammino, cammino, e corro come un bambino, e sparo al destino, taratara. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ci ritroviamo tutti i giorni qui alle 18 per cominciare la nostra camminata quotidiana. Se per te è la prima volta, lasciati andare. Unisciti a noi. D'Agostino. Messaggio di Ambra. Lilo, ti amo. Sono Raffa. Volevo dedicare un saluto alla mia prof di latino perché non mi ha dato il debito. Sono Alex, dalla provincia di Modena. La tua musica è un bomber song. Che cos'è? Vabbè. Volevo dire che amo una ragazza, ma non riesco a dirglielo. Dimmelo tu come fare. Ma io credo che la grande soluzione sia proprio in questo messaggio. La frase che hai scritto a me devi dirla a lei. Vorrei dirti che ti amo, ma non riesco a dirtelo. Io credo che così lei riesca a percepire il tuo grande sentimento. All'amore più grande della mia vita, mio figlio, che oggi, e cioè ieri 21 giugno, ha preso la patente. Ti amo, Salvo, mamma. Si abitua a un sentiero. Al limite, se proprio gli piace da impazzire, ogni tanto ci torna, lo ripercorre lo rivive. Ma ogni volta lo sceglie. Se qualcuno si è fermato, il cammino l'ha salutato. Non è che possiamo fermarci, non è che siamo qui a snocciolare le olive. Ringraziare e salutare un po' di gente che mi ha scritto. Max70, Debbie, Elisa, Martufella, Serena da Catania, Alfredo da Carmagnola, Diana e Raffaele da Napoli, Francesco da Cosenza, Monica da Pisa, Vittorio Tramontano, Lucio Love, Viper o Viper da Catanzaro, Tiziana, Cristian da Teramo, Roby di Cesenatico, Lento Violento Lover. Vabbè, sono tantissimi per problemi di tempo, ovviamente non posso leggerli tutti. Comunque grazie a tutti. Grazie. Yeah, P, yeah, P, yeah, P, oh. Codesta e la musica pesta. No, poi dicono che non riesco a fare le rime. Cioè, a lavorare tutti, forza. Sulla frequenza della benevolenza M2O. E qui ogni giorno alle 18 c'è qualcosa che cammina. Uno sguardo che rompe il silenzio. Uno sguardo ha detto ciò che penso. Uno mai uguale. Tutto ciò che so te lo dirò, e tutto ciò che non sai dire spiega il mare. La strada non è mai la stessa. Sento qualcosa di grande di questa città. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. La bugia che rompe ogni silenzio, è la bugia che dico solo se non penso. Ti prego non fermarti proprio adesso, perché dopo non si può. Sei sulla frequenza della benevolenza, M2O. E qui, ogni giorno, alle 18, c'è qualcosa che cammina. Una storia grande come il mondo, una storia lunga tutto il giorno. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. We'll be right back. Magari più bella.